Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Una strage di donne per mano di mariti, compagni e fidanzati violenti. Ogni volta è una morte annunciata perché spesso, prima del gesto estremo, lui è ripetutamente aggressivo, geloso, ossessivo. Diventa lo stalker che non dà tregua alla propria donna. Ecco perché per rafforzare la lotta ai reati sentinella e tentare di arginare il femminicidio si pensa di introdurre il braccialetto elettronico e le intercettazioni per chi sia stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamento. Non ho mai nascosto di non aver amato fortemente il termine femminicidio, anche se capisco, comprendo, ho spesso parlato, approfondito quelli che sono i contenuti che stanno dietro a questa parola. Questa mattina voglio riprendere il tema perché, come è noto, è stato approvato alla Camera il famoso decreto sul femminicidio. Adesso va a passare al Senato, alcuni giorni di tempo. Un decreto molto vasto, comprende molte cose. I grillini hanno incrociato le braccia proprio perché lo chiamano decreto omnibus. Si parla anche di una serie di altri reati che nulla hanno a che fare con la violenza contro le donne. Ma questa mattina vorrei concentrare l'attenzione proprio su quello che è l'aspetto che secondo me diventa interessante: il controllo elettronico del recidivo della persona che insiste, della persona che viene allontanato appunto dalla famiglia, dal luogo in cui compie ripetutamente gli atti di violenza o gli atti di oppressione. Il ricorso ai metodi tipo elettronico, l'intercettazione, il braccialetto elettronico, poi la Presidente della Commissione Giustizia, Donatella Ferranti, lo leggo su Repubblica di oggi, dice: la tecnologia permetterà anche di vigilare in altri modi. Ci saranno anche altri modi per la vigilanza elettronica. La riflessione viene da fare che un reato che è molto visibile ai giorni nostri, quello della fastidiosa fino a violenta, fino a omicida attenzione di un uomo nei confronti di una donna, vagamente distribuita anche su donne che fanno la stessa cosa verso uomini, ma l'attenzione generale verso gli uomini, perché gli uomini hanno dalla parte loro la forza fisica, la supremazia di tipo fisico, quindi l'attenzione fastidiosa di un uomo si traduce spesso in un ricatto dato alla supremazia fisica, che molte volte passa attraverso strumenti elettronici. Oggi il reato di stalker viene perpetrato, oltre che in maniera fisica e diretta, molto attraverso le protesi elettroniche attraverso cui si raggiunge una persona, il telefono, gli strumenti quotidiani di relazione informatica. Una riflessione viene da fare perché oggi si parli tanto di stalking, perché è una cosa legata alla contemporaneità. Ci ho riflettuto nei momenti precedenti a questa messa in onda, perché in effetti in epoche passate, ma nemmeno fino a tanti decenni fa, una donna aveva sempre un uomo che si occupasse di lei, vuoi marito, vuoi padre, vuoi fratello. Il passaggio, ahimè, il lato scuro dell'emancipazione della donna, dell'autodeterminazione della donna, del fatto che la donna possa dire: io sono donna, appartengo a me stessa e penso a me stessa, che improvvisamente gli uomini, come lupi scatenati, si sentono in prossimità di selvaggina non tutelata, che non appartiene a nessuno, e quindi si sentono, ahimè, nel lato patologico della moderna maniera di concepire la mascolinità, in diritto di approfittarne. 800 24 0024, parliamo dei nuovi sistemi di controllo, di prevenzione e di repressione della violenza, soprattutto legata allo stalking nei confronti delle donne. Non mi sento più al sicuro neanche a casa, perché la notte non riesco a dormire, perché ogni minimo rumore che sento mi alzo e ma vado come subito è iniziata questa? Con le chiamate con l'anonimo all'inizio non ci ho fatto peso, perché rispondevo, poi metteva giù. Invece sono diventate sempre più frequenti, anche di notte, alle 5 di notte, a mezzanotte. Dopo ho iniziato a rispondere e questa persona mi diceva: ti sto guardando mentre stai dormendo dalla finestra. E continua, mi ha bucato le gomme della macchina, 15 gomme della macchina mi ha bucato. 15 volte? Sì. So chi è. Questo è un personaggio che anche da parte sua, come aggravante la notorietà, quindi ancora più appetibile per l'esasperata maniacalità degli uomini persecutori, era una signorina che Eliana Cartella, ex della Isola dei Famosi, quindi persona la cui celebrità è stata data da un programma destinato proprio all'attribuzione di esistenza alle persone, questo è il lato oscuro. Avvocato Lorenzo Puglisi, buongiorno. Buongiorno a lei. L'avvocato Puglisi è presidente dell'associazione SOS Stalking, che è il primo sportello telematico in Italia che è in grado di offrire una consulenza diretta, sia legale che psicologica, alle vittime dello stalking. Lei come ha visto questa mattina la notizia del braccialetto elettronico e dei sistemi elettronici di controllo? Noi l'abbiamo interpretata sicuramente come una buona notizia. Consideri però che purtroppo siamo abituati ad essere molto cauti prima di cantare vittoria, perché si parla di braccialetto elettronico ormai dal 2003. Consideri che le reti telecom che sono state utilizzate nel 2003 per dare avvio al progetto di cui si discuteva già 10 anni fa hanno avuto, diciamo così, una vita decennale, quindi sono state in piedi 10 anni con dei costi di circa 11 milioni di euro all'anno senza che venissero mai realmente utilizzati. Ma si sa quanti italiani hanno il braccialetto e lo stanno a tutti gli effetti usando? Sono 18 italiani. Ecco, per 18 persone è stata fatta una rete milionaria. Sono stati spesi 80 milioni di euro. Tanto è vero che c'è già stata un'interrogazione parlamentare un paio di anni fa quando era ministro. Sarebbe costato meno 18 guinzagli d'oro tempestati di diamanti per tenerli a bada. Assolutamente sì, ma tanto è vero che se ne è già parlato in Parlamento, c'è stata un'interrogazione parlamentare quando era ancora ministro Roberto Maroni, ne ha parlato la Severino l'anno scorso, ne ha parlato la Cancellieri, quindi diciamo che è un iter molto travagliato quello del braccialetto elettronico e non se ne comprende neanche a fondo il motivo. Perché? Perché le esperienze in Europa sono assolutamente positive. Considerate che in Inghilterra sono attivi 22.000 braccialetti, in Francia ne sono attivi più di 6.000, e l'esperienza è stata molto positiva perché chiaramente sgrava di una serie di incombenti le autorità giudiziarie. Vediamo se ho capito, avvocato. Il braccialetto elettronico è una specie di GPS che mi segnala se io entro nella zona che non devo valicare, da qualche parte viene segnalato e intervengono subito. Così funziona? Assolutamente sì, è collegato a un GPS, per cui nel momento in cui viene disposto ad esempio un ordine di non allontanamento da un luogo o di non avvicinamento a un luogo frequentato da una vittima, suona e quindi automaticamente le forze dell'ordine sono allertate e intervengono immediatamente. Che per quindi uno stalker non sarebbe male, diciamo, avere il segnale acustico quando si avvicina la vittima? Sarebbe assolutamente la cosa ideale, più che il segnale acustico il fatto di poter essere tranquilli che non ci sia un avvicinamento da parte di un malintenzionato e comunque avere la certezza che un qualcuno lo stia monitorando costantemente. Ma un po' anche questo problema, però facciamo una situazione di paradosso: lo stalker è di fronte alla porta della sua vittima, suona nella centrale d'allarme il campanello, però deve partire una macchina della polizia o dei carabinieri per andarlo a intercettare. Chiaramente. Non è come nei film che parte una scarica elettrica o una carica esplosiva e salta in aria, non è così? No, direi che non siamo ancora a quei livelli, diciamo che sarebbe leggermente anticostituzionale. Ma detto questo è chiaro che un sistema come quello di un controllo a distanza piuttosto che non avere nulla è sicuramente un vantaggio. Sentiamo un attimo l'ascoltatore romano, 800240024, anche qualche donna se possibile, visto che è il 3% in più quelle che mi seguono. Romano. Sì. Io volevo aggiungere che allo stalker tradizionale va anche considerato un incremento percentuale dovuto alla situazione economica generale dell'Italia, quindi non è confrontabile a mio avviso la situazione italiana con quella per esempio della Germania, dove il problema... Ma perché dovrebbero prendersela con le donne e perseguitare donne? Perché l'uomo non riesce a soddisfare la donna o talvolta, e quindi da questo nasce la divisione, cioè nasce la separazione, e tutte le conseguenze annesse. Ma scusi, se un uomo dovrebbe avere anche le palle per gestire i momenti di minore felicità economica, non ti posso invitare a cena e quindi ti prendo a schiaffi. Ma siamo purtroppo tutti quanti di carne e ossa e quindi subiamo le conseguenze della situazione. Ma secondo me è un giustificativo un po' ipocrita per giustificare il fatto che l'uomo non si sente più tale, ma è un problema suo, non è un problema delle donne. E quindi il potere d'acquisto probabilmente era il succedaneo più ideale per la sua virilità perduta. Quando manca quello si sente ancora più perduto e mena le mani. Elisabetta. Sì, buongiorno. Sì, infatti io ero un po' d'accordo con lei su questo argomento, nel senso che mi dà l'impressione che i bambini già da piccoli crescono con le paure, no? No, non fare questo perché hai paura, poi non va bene, tutto si, hanno sempre la cosa da prestazione, no? Anzi, la paura prestazione. Della prestazione, sì. E crescendo però non sono capace più di sentirsi dire no, questo non mi va bene, perché sono cresciuti troppo con l'idea che quello che voglio posso avere. L'uomo è viziato sin dall'infanzia a ottenere tutto quello che vuole. Quando la donna dice guarda, mi fai schifo, e non permette, il giocattolo è suo, nessuno glielo porta via. Mario è intermittente in questo momento. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Massimo Lattanzi è venuto più volte al nostro telefono, psicologo, sì. Psicoterapeuta, fondatore Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale dello Stalking. Lattanzi, come la vede lei la questione del braccialetto elettronico? Se applicato sarebbe efficiente, visto che lei si occupa anche di stalker, non soltanto di vittime. Lei conosce il personaggio di prima mano, ecco. Diciamo proprio così, e diciamo che già da ieri sono arrivate delle mail di persone che seguiamo anche a distanza oltre che fisicamente, e diciamo sono abbastanza contrariate rispetto a questa soluzione che secondo loro non servirà a nulla. E mi permetto di aggiungere una cosa, che il decreto prevede in alcune situazioni l'uso del braccialetto e delle intercettazioni solo in caso di uso di armi e di minaccia di vita grave, non è previsto per tutte le manifestazioni. Quindi di è la punta più avanzata e criminale dello stalking. Quella più a rischio di vita. Questo è importante dirlo perché dobbiamo, come voi fate benissimo, magnificamente, dare una giusta informazione. Quindi non ci illudiamo, non è che la persona che ha l'uomo, l'ex fidanzato, l'ex marito che la tartassa, lo vedrà mai con il braccialetto al polso. 100 telefonate o 50 email probabilmente non verrà mai associato a un braccialetto elettronico, tantomeno a un'intercettazione telefonica che, come sappiamo, ha dei costi molto alti. Quindi il titolo sparato, braccialetto elettronico per gli stalker, è un po' panna montata, perché in realtà lo stalker medio, della fascia media, che non è quello che va con la pistola e con il coltello, che è la fascia più avanzata, non avrà mai il braccialetto, almeno secondo il decreto, il braccialetto al polso. Melog, cronache meridiane. Se l'è presa con me picchiandomi, mi aveva proprio devastato, avevo i capelli lunghi e neri ed erano tutti sporchi di sangue, i vestiti, non ce li avevo più, i vestiti addosso del colore che avevo, ma erano diventati completamente rossi. Avevo il naso spaccato e un paio di denti che mi erano caduti. Ricordo benissimo l'ultima volta quando mi puntò. Questa è la testimonianza di una donna vittima di un compagno violento. Mi scrive un sms un ascoltatore: che noia Nicoletti, sei monotematico. E un altro mi scrive: caro Nicoletti, avete voluto gli uomini senza palle, adesso ne pagate le conseguenze. Poi io non ho mai firmato nessuna sottoscrizione per lo scoglionamento dei maschi, è un problema che non mi riguarda. Mario, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, non dare retta a queste cose, va bene come fa lei la trasmissione. Alla sua storia, andiamo. La storia è questa, io ho una figlia che per 10 anni ha avuto questo problema, addirittura questo, mia figlia era incinta con del suo bambino. Questa all'inizio era tutto a posto, addirittura è andato sopra con la macchina. Era il padre del bambino? Sì, il padre del bambino, che non era, diciamo così, un compagno, non il padre. Vabbè, era successo. Diciamo, il padre sì, però non era il marito. Sì. Di conseguenza, con testimoni che erano andati in ospedale, faccio in breve tutto, e praticamente con denunce tutto, depositato in magistratura, non è intervenuto nessuno. L'unica cosa che sapevano fare, forse dell'ordine, era dire a me, lei stia calmo, perché altrimenti arrestiamo lei. Questo sapevano dire, perché vedevano la mia... E come è finita la storia, Mario? Adesso lui è stato accusato di stalking, praticamente è in attesa comunque di avere il processo. Ma gira ancora, intorno a sua figlia? No, no, adesso è, il paradosso me lo fa a me lo stalking, mi fa dei messaggi, e io non lo lascio perdere comunque, perché non me ne frega niente. Vabbè, niente, continua così. E quindi è in attesa di giudizio, è libero, che può intervenire, adesso si è un po' allontanato, per fortuna che gli hanno detto di stare lontano, no? La solita legge... Comunque sempre affidato tutto all'estero e alla volontà del carnefice di muoversi o meno. Sì, mi scusi, solo un'altra cosa. Sì. Finché non trovi il maresciallo e il poliziotto che le dà retta, non se ne fregano niente. Prendono in giro le ragazze o le signore. Sentiamo Laura. Laura, buongiorno. Grazie Mario. Laura. Buongiorno. Io sono una vittima di stalking. Adesso sono 2 anni che respiro, nel senso che non mi dà più tormento, però la mia situazione è molto simile a quella che ho sentito, nel senso che io mi sono trovata da sola, donna da sola, con 3 figli, meno male, non dello stalker, ad affrontare una situazione simile a tante altre. Il problema è che finché io non ho avuto un compagno che ha preso lo stalker e l'ha sbattuto al muro fisicamente, che è una cosa che non si dovrebbe fare perché è pericolosa, perché è legale, perché è, io ho avuto il tormento delle gomme rotte. Ma perché, delle perché la perseguitava? Che scappavano, perché l'ho lasciato. Ah, è un ex fidanzato. Un ex fidanzato che è stato lasciato, prima sai una cosa, e quindi da lasciare sul comodino, comunque di proprietà, ti curano poco, non ti danno retta, dopo che tu ti stanchi e dici vabbè basta, adesso ho bisogno di... Comunque comprare. un suo diritto anche lasciare una persona, che vuol dire? No? E a quel punto diventi la cosa più importante della loro vita, l'amore infinito, e scambiano questa parola amore con in realtà un grande... Ma questa è l'ossessione del maschio contemporaneo, che non ammette di essere contraddetto. Di soprammobili può tenerne quanti ne vuole, farci quello che vuole, è a suo estro. Ma quando il soprammobile si ribella e se ne va, o può appartenere a un altro, va di testa. Perché? Perché la mamma gli ha detto sempre sì, gli ha dato sempre tutti i giocattoli, gli ha detto sempre che era il più bravo, il più buono, il più intelligente. Torniamo a Massimo Lattanzi. Ma Lattanzi, l'ho interrotta su una cosa importante, sulla reale utilità poi del braccialetto, perché poi il braccialetto è legato a un intervento reale, precoce, esatto, immediato della polizia. Esatto, è proprio questo il punto cruciale, secondo me. Noi abbiamo una scarsità di presenza di volanti e di pantere, di poliziotti e carabinieri che fanno l'impossibile per assicurare la sicurezza al cittadino. Non possono in questo momento di crisi accollarsi anche questo servizio, ve lo dico con condizioni di fatto, perché oggi proprio presentiamo un corso in collaborazione con il sindacato di polizia COISP in questura a Roma, dove parleremo quasi in tempo reale di questa proposta. Beh, è praticamente impossibile. Lo dice Lattanzi. Sentiamo l'avvocato Puglisi, ricordo presidente associazione SOS Stalking. Le perplessità esistono anche dal suo osservatorio rispetto a questa impossibilità di intervento immediato, e appoggiare tutta l'attenzione sul rimedio elettronico forse non è un po' ottimistico. Assolutamente sì, anche se devo dire che non condivido totalmente quello che è stato detto. Beh, nel senso che è sicuramente, allora, il braccialetto elettronico non può essere considerato la panacea di ogni male, è sicuramente uno strumento in più che va concesso alle forze dell'ordine, chiaramente con dei planning. È chiaro che dall'oggi al domani non si può pretendere che il tutto sia destinato a quello. Io però mi riferisco ad esempio alla zona della Lombardia e in particolare a Milano, le tempistiche si sono di gran lunga accorciate per l'intervento nei confronti degli stalker. Io adesso non conosco la situazione. A Roma abbiamo tanti politici a dovergli fare la scorta, questo è il problema. Guardi, a Milano i tempi di intervento sono veramente ridotti rispetto a qualche tempo fa, e le garantisco che ho parlato con commissari di polizia che sono entusiasti all'idea del braccialetto elettronico, per cui non sono così disfattista, anzi sarebbe ora che quantomeno venisse posta la pietra miliare per introdurre davvero questo progetto. Ma è vero che è riservato soltanto al rischio di omicidio, di attacco con arma, e non alla banale per quanto dolorosa attenzione molesta di uno stalker? Sì, assolutamente sì, considerate che di stalking ne esistono diverse tipologie, si va dallo stalking condominiale allo stalking degli adolescenti sedicenni che magari scrivono su Facebook all'ex fidanzatina, quindi è chiaro che non si può generalizzare, ci sono casi più gravi e giustamente il legislatore ne ha preso atto e sarà su quelli che si interverrà, non di certo sullo stalking con un'intensità minore di gravità. Quindi evidentemente non possiamo pensare che sia il rimedio elettronico quello che ci tiene a riguardo a questo tipo di problema, ci tiene sicuramente tranquilli. L'ultima cosa, avvocato, sui 10 milioni di euro per la promozione, educazione e formazione che sono state stabilite al Ministero delle Pari Opportunità a latere di questo provvedimento, secondo lei come saranno distribuiti? Perché l'aspetto polemico, molti dicono, sai, dietro questa legge lo stalker c'è l'idea che si apriranno un'infinità di centri di assistenza, di tutela, di interesse vario, ma in realtà è una parte importante. Sì, è una parte importante, forse anche prematuro dare un commento su questo, perché è chiaro che purtroppo viviamo in un paese in cui questo genere di cose trova sempre una difficile amministrazione, per cui in questo momento non mi sento di dare un parere, perché voglio che prima sia approvato il testo di legge definitivo, dopodiché forse saremo in grado di poterlo fare. In questo momento sarebbe davvero prematuro. La ringrazio l'avvocato Lattanzi, l'avvocato pugliese, ringrazio Massimo Lattanzi, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini. Ci sentiamo domani.